degli operai, dei 150 operai ammazzati da Marzotto, Marlane Marzotto, in questa fabbrica di Praia. E Luigi, insieme a Francesco Cirillo, hanno prodotto questa inchiesta giornalistica molto prima che la Procura della Repubblica aprisse un fascicolo, a dimostrazione del fatto che esiste comunque una sfera d'attenzione, esiste una società civile, come si diceva una volta, partecipe ed attenta alle vicende che si verificano sul territorio. Siccome Luigi ha il treno fra poco, daremo subito la parola a lui. Più che altro noi siamo onorati di averlo in mezzo a noi, perché Luigi, facendo i dovuti scongiuri, tutte le corna che possiamo fare, toccando tutto quello che c'è da toccare, è uno dei sopravvissuti, è uno dei superstiti, nel senso che tutti i suoi compagni sono morti di cancro, stanno morendo in questo momento, e quindi Oreste. E domani Oreste giustamente mi ricorda che finalmente dovrebbe svolgersi un'udienza a Praia, a Paola, perché da un anno, per un motivo o per l'altro, le udienze sono regolarmente rinviate. Probabilmente c'è la volontà da parte di qualcuno della difesa della proprietà, di solito avviene in questi casi. Prescrizione che non è arrivata a Torino, per fortuna, sappiamo benissimo le vicende del processo, processi che in questo paese si stanno aprendo. Io leggevo di un procedimento giudiziario recentemente aperto a Livorno, un altro a Napoli, per cui di Eternit si comincia a parlare nei termini giusti, cioè della devastazione ambientale, dell'aggressione alle vite degli operai e dei familiari interessati da situazioni come quelle del Piemonte, e soprattutto della ricaduta sui cittadini. Sarebbe interessante, in questo quartiere dove io sono nato e cresciuto, si parla spesso del registro tumori, aprire un'altra inchiesta su quante persone sono morte di cancro polmonare negli ultimi 20 anni, tra qui e la Sagliuti Pagliaro, che sarebbe via Miceli. Vi dico questo perché mia madre è morta di tumore polmonare, e a casa mia nessuno fumava sigarette, e mia madre era una donna virtuosa, e di tumore polmonare è morta anche la mamma di Piero, di fronte a casa mia, a poche decine di metri. Probabilmente è la diossina e il piombo che abbiamo respirato vivendo su Corso Mazzini per 20 anni, probabilmente, chi ce lo dirà mai. Ma permettetemi, insomma, di nutrire il sospetto che queste morti siano comunque da attribuire al fatto che l'intero centro cittadino era coperto da di Eternit. Adesso il comune si muove, la giunta Perugini che avrebbero fatto un censimento, che sarebbero intervenuti, non si è visto niente, come nella stragrande maggioranza delle cose che dicevano. Questa giunta dice, ha aperto un fascicolo, ha aperto un registro in Via degli Stari, che si muoverà, che farà qualcosa. A questo proposito, questa sera abbiamo qui con noi i ragazzi, li chiamo ragazzi perché siete giovanissimi, insomma, ma sono dei professionisti, degli ingegneri, che lavorano con l'assessore Hauser, che avevamo invitato, che non è potuta intervenire, ma è degnamente sostituita da loro. Si tratta del dottor Valerio Boccone, che è assistente dell'assessore Hauser, e degli ingegneri Veronica Gallo, Alberto Trotta e Vincenzo Miceli. Con loro, ecco, noi cercheremo di approfondire questo tema. Forse alle compagne e ai compagni che si sono fatti promotori di questa iniziativa sarebbe piaciuto, avrebbero preferito affrontare direttamente con la parte politica questa questione. Ecco, voi siete dei tecnici. La domanda che forse noi vorremmo rivolgere direttamente al sindaco Occhiuto, mi pare di poter interpretare anche la volontà dei compagni e delle compagne del rialzo, oltre che di questa struttura, è una volta che saranno sgomberati questi capannoni, come pare voglia procedere, insomma, l'amministrazione, sperando che questi lavori si svolgano secondo i criteri previsti dalla legge, perché non dimentichiamo che è recente il fatto gravissimo avvenuto su Via degli Stadi, dove l'ex Assolac, la centrale del latte, è stata smantellata l'anno scorso senza alcuna tutela, alcun meccanismo di cautela nei confronti di quelli che abitano intorno. Cioè, sono stati buttati giù, non è responsabile di questa amministrazione, sono stati buttati giù centinaia di metri quadrati di Eternit senza nessun riguardo per chi abitava lì intorno. Ancora una volta abbiamo sentito parlare di inchieste della procura e poi non si è detto più niente. Adesso lì costruiranno un centro commerciale, non so bene, costruiranno l'ennesimo grattacielo che nessuno andrà ad abitare, la finanza creativa, l'edilizia di questa città, la malavita di questa città. Non lo so cosa succederà, sicuramente è avvenuto uno sfregio a danno della cittadinanza su Via degli Stadi, e siccome dimentichiamo presto, in genere gli esseri umani, in particolare noi calabresi, non si parla più di quello che è avvenuto là intorno. Eppure là intorno sentiamo parlare di una casistica di malati di cancro che aumentano, insomma, sentiamo rimbalzare delle notizie poco allegre. Allora, prima di tutto vorremmo sapere quando l'amministrazione procederà su questi capannoni. Lo farà adottando i criteri che la legge prevede? E a questo proposito abbiamo con noi due responsabili dell'Osservatorio Nazionale sull'amianto, che sono il professor Giuseppe Infusini, che è coordinatore provinciale di Osservatorio Nazionale Amianto, e il professor Beniamino Falvo, che è coordinatore regionale, nonché coordinatore di fascia costiera Alto Tirreno, sempre dell'Osservatorio Nazionale Amianto. Ci illustreranno, insomma, ci spiegheranno un po' come funziona la legge. Sì, anche Luigi Pacchiano è impegnato in questo tipo di battaglie. E con noi abbiamo l'onore di avere anche la compagna, la professoressa Laura Corradi, che di battaglie ambientali, ambientaliste, qualcosa ne sa, insomma, non avrebbe bisogno di presentazioni. E io non volevo dirlo perché volevo attenermi alla privacy. Laura è un'altra che di malattie polmonari può parlare, sia da ex operaia, perché è stata una che prima di andare a fare l'accademica in università si è sporcata le mani con la realtà e con il lavoro crudo e puro, ed è una dei, posso dirlo, è una di quelli che sono usciti dai fatti. Oggi si parla spesso del film Diaz, no? Dei fatti di Genova. È una di quelle che si sono fatti 6 mesi di ospedale per aver respirato il gas CS, e ce ne sono tantissime altre centinaia in tutta Italia. Quindi le malattie polmonari sono qualcosa di estremamente serio, anche quando non si presentano col volto maligno del cancro. Insomma, io ho provato a fare una carrellata sui presenti, le domande in maniera confusa credo di averle poste. Dicevo, voi ci direte, ci rassicurerete, cioè ci direte che cosa succederà in quest'area quando sarà rimosso l'Eternit. Alla domanda però quale sarà la destinazione d'uso di questi terreni non siete chiamati a rispondere. Continueremo a porre questa domanda in maniera pubblica, lo faremo direttamente al sindaco. Ci auguriamo che questa amministrazione, a differenza della precedente, non abbia la presunzione di pensare di poter trattare solo con una parte delle realtà sociali che gestiscono quest'area. Se commettesse questo errore si troverebbe contro tutta l'altra. Ecco, chiunque creda di poter costruire una chiesa o qualsiasi altra cosa in quest'area e di poter trattare solo col vescovo si metterà in un mare di guai. Speriamo che sia un processo realmente partecipato, speriamo di poter... ...di nascondere qualsiasi dinamica costruttiva o distruttiva, che ci sia un confronto leale. Finora dobbiamo dare atto al sindaco, il suo comportamento, il suo atteggiamento nei confronti di tante di queste questioni è stato tale, cioè è stato di apertura. Speriamo che rimanga questo e che non abbia la presunzione di pensare che, non esprimendo noi dei voti, contiamo zero. Perugini ha pagato sulla propria pelle il fatto di... Probabilmente se il suo consenso è sceso in maniera così drastica lo si deve anche all'azione di denuncia che è stata portata avanti da queste associazioni, da queste realtà, in maniera dura e pressante per 5 anni. È un piacere. Se il microfono ritorna a fare il microfono. Grazie, buonasera. Io sono Luigi Pacchiano, vengo da Preammare, ex dipendente Marlane, e sono coordinatore per l'ONA, Osservatorio Nazionale Amianto, per la fascia terrena Alta Cosentina. Io, per quanto riguarda il fatto dell'amianto, ho collaborato più volte con il presidente dell'ONA, con l'avvocato Bonanni. Abbiamo fatto molte assemblee in giro per l'Italia, si è parlato d'amianto, finalmente è partita questa benedetta legge di vedere come fare per mettere a bando l'amianto, di tenere pulito l'ambiente e tutte queste cose. Non mi allungo sul discorso dell'amianto perché ci sono i coordinatori di Cosenza qui che illustreranno meglio la situazione. Io vengo da una realtà aziendale dove si lavorava qualsiasi tipo di colorante, dal cromo isovalente, qualsiasi metallo pesante, più l'amianto. L'amianto che si consumava in fabbrica, tutto quello che si usa in una fabbrica e non solo, ma per tutti i freni delle macchine che si trovavano nell'ambiente di lavoro, c'erano 108 telai che i freni si consumavano rapidamente. E guarda caso, per fare la manutenzione alle macchine, quando si consumava i freni, si usava una pistola aerea compressa, si soffiava e si creava un aerosol che tutti quelli che stavano nell'ambiente potevano inalare questo benedetto amianto. Gli addetti o chi era nei paraggi non esisteva nessuna misura di sicurezza: maschere, guanti, cappelli, aspiratore sufficiente, il ricambio d'aria, non esisteva niente. E la prova qual è stata? Che per i morti che sono avvenuti in quella fabbrica, perché fino adesso si parla di un numero, però io non lo confermo e né lo smentisco, perché non è stato fatto un monitoraggio realmente per quelli che sono, e non sappiamo quanti ammalati realmente ci sono, perché il tribunale dice 100, chi dice 80, chi dice 150. Io più o meno so quelle che sono, però non confermo niente perché non è fatto un monitoraggio e non lo vedo. Ci sono morti di qualsiasi tipo di tumore, sono avvenuti in questa azienda. I medici aziendali non sono mai esistiti, perché se in tutti gli anni, in base alle leggi, che le persone addette devono avere una visita periodica, queste visite periodiche non sono state mai effettuate perché il medico non esisteva. E la prova evidente qual è? Che non esistevano i medici, perché poi un bel giorno è toccato pure a me di ammalarmi. E quando io sono andato in ospedale, era pochi giorni prima di Natale, mi portano in ospedale di urgenza, andai lì, mi hanno operato subito, e poi sono uscito dall'ospedale e andai in fabbrica, perché allora si pagava la busta paga con la busta paga, i soldi per contante si davano. E io mi recai in fabbrica per pigliare la busta paga, però io non sapevo la mia vita qual era, perché non sapevo niente, se, quando potevo vivere, perché gli altri ne erano morti tanto. E l'azienda mi hanno sorriso in faccia, dice sì, non ti preoccupare tanto. E la cosa più incredibile è che i medici tutti mi dicevano che io l'ambiente dove ero non dovevo stare più, perché era pericoloso. L'azienda mi sorrideva in faccia, non se ne fregavano niente. Io continuamente dovevo andare in ospedale, sia per chemio, per tutte queste cose qua, però nessuno si interessava. I sindacati confederali GGL, l'azienda, invece di pensare per l'operaio, pensavano il loro introito e la loro lavoro che facevano per conto dell'azienda. E sono dati precisi, perché alla Camera di Commercio di Cosenza ci sono i dati che loro avevano questa attività 90 che lavorava per l'azienda. Io sono andato avanti tutti questi mesi e questo è successo nel 93. Io nel 94, il mese di settembre 94, un giorno ritornando a casa, perché abitavo in un alloggio aziendale, e incontrai un signore nel viale e mi disse, lei deve passare la visita dell'udito, mi ha fatto questo signore. Disse, scusate, ma lei chi è? Mi può dire chi è? Dice, io sono il medico aziendale. Dice, io non l'ho mai visto. Dice, no, io sono qua dal 92, faccio servizio in azienda. Dico, io non l'ho mai visto. Allora, se l'azienda dice che le visite periodiche venivano effettuate, programmate, io in 2 anni non ho mai fatto una visita, allora non era programmata, non è vero, loro non facevano niente. Lui si veniva a pigliare soltanto quelle che gli interessavano. E poi disse, no, io non so se devo passare la visita dell'udito, mi fa me, dice, va bene. Poi siamo messi a discutere e io gli ho raccontato l'episodio che era avvenuto a me. E mi fa, dice, guarda, io non so più niente. Ora, se un medico aziendale, un operaio manca continuamente dal lavoro perché deve andare in ospedale per pulizie, chemio, controlli, continuamente, lui non sapeva niente. Allora mi fa a me, dice, sai che c'è? Domani sera viene che ti sottoponga a visita. Ma io era quello sbagliato, scusa, non è giusto questo. Come si permette lei? è andata avanti questa storia fino al novembre del 95, che facevamo le barzellette, no? L'azienda, i dirigenti, il medico, finché che l'11 novembre del 1995 ho dovuto rassegnare le dimissioni e me ne sono dovuto andare a casa, mi sono licenziato. E il 17 95 denunciai l'azienda per danno biologico. E si sono aperte delle voragini tra me e l'azienda, perché sai, loro erano potenti, ti richiamavano che la dovevi smettere, mi invitavano a finirla perché loro erano potenti, loro potevano fare quelle che volevano, mi hanno pure chiamato di stare buono buono. E io dissi sì, no, io paura non ne ho, dico, perché io quando posso vivere non lo so, dico, io vado avanti e basta. E abbiamo fatto udienze contro udienze, la cosa più strana che quando io ho denunciato l'11 novembre del 95 il fatto che era successo a me nell'azienda, il 17 novembre, l'11 finì di lavorare, il 17 ho denunciato tutto, il giudice per mandare a fare una perizia odontologica con la CGU niente meno, è andata dopo 18 mesi. Si è presentata la CGU nel maggio del 97. L'azienda in quel periodo ha avuto tutta la possibilità di smantellare e cambiare tutte le carte in tavola dell'azienda, per esempio la filatura l'ha divisa con un muro interno, hanno fatto impianto aereo condizionato, la tintoria top è stata smantellata e rottamata, la tintoria rock è stata smantellata e rottamata, la tintoria pezzi fu rifatta nel 1991 ex novo, con basi chiuse, medicamenti, impianti di aria condizionata, hanno fatto quello che hanno voluto, e che i veriti poi concludono che l'azienda, se guardata bene, rimane tra 100 di qualche anno. E quando poi siamo andati a discutere, loro dicevano che l'amianto in questa fabbrica nemmeno un grammo se n'era consumato. Non è vero, perché tutti i freni delle macchine e si consumavano eccetera, perché allora chiunque aveva macchine sa che i freni erano d'amianto. I coloranti, qualsiasi tipo di coloranti, perché noi avevamo la progettazione, la campionatura e tutte le pinture di qualsiasi tipo di colore che usavamo, e il sindaco attuale d'Italia era il chimico dell'azienda e c'è stato dentro lui dal 1971 al 1988 e lui diceva i periti qua è tutto come era prima, che non c'era niente più. Ora se un'azienda era ciclo completo prima e ora non c'è più, non c'è fondo al vero. E sì, che è indagato per omicidio attualmente. L'altra sera, sabato scorso, ha fatto un comizio che finisce il suo mandato adesso a maggio come sindaco e ha dichiarato che poi oggi finalmente abbiamo avuto la registrazione di tutto il comizio, perché era, io non c'ero al comizio perché sono dovuto andare a Mantega, c'era un discorso sulle navi dei veleni e sui cancerogeni, secondo l'altro ero lì presente, non ho potuto partecipare all'assemblea del sindaco a Praga. E lui dice che non è niente vero tutto quello che si dice, e poi ha aggiunto finanche che gli operai ammalati o i familiari dei deceduti non fanno altro stare a speculare su quanto è avvenuto. Anzi, pure questo ci dobbiamo dire. E adesso stiamo aspettando, perché oggi mi hanno mandato il link per vedere questo programma, non ho avuto tempo di guardarlo perché sono venuto qua, e lo facciamo vogliare agli avvocati se ci sono gli estremi di poterlo denunciare per diffamazione a questo signore. Non ho speculato niente, io vorrei la salute come era prima e poter mangiare tutto e stare insieme a tutti. Io non lo posso fare, me ne devo andare a casa, non mi fermo qua, perché io prendo la media di 10 a 12 pillole al giorno per stare in mezzo a voi, non è che sto così tanto per fare. E lui si mette pure in giro che ci vogliamo speculare sopra questo signore. E allora non va bene la situazione, perché lui ancora nega l'evidenza. Un operaio, chi ha visto Crash, adesso non c'è il tempo, se non le facevo vedere un filmato che ha mandato Crash in onda a novembre scorso, 54 minuti, dove questo signore, il sindaco, all'operaio, a questo che è deceduto l'anno scorso a marzo, prima di morire ha lasciato delle interviste, dove dice che dietro la fabbrica c'erano delle buche di 4 metri di profondità, che tutti gli avanzi di questi materiali cancerogeni e tutti quelli fuori serie, perché tutti i coloranti che vanno fuori serie venivano buttati, non è che le potevano usare più. Dove si andavano a mettere? In queste buche. Quando poi erano pieni, la ruspa arrivava, scavava al lato un'altra buca e copriva queste. E l'operaio dichiara questo. Il sindaco nega. Non è vero, perché hanno fatto i sondaggi dietro lo stabilimento, a una parte soltanto, e hanno trovato tutto e di più. E lui lo nega ancora, ha detto fino anche l'avvocato suo, a Paola, che hanno trovato, e che non hanno trovato niente, hanno trovato un matarasso e una rete. Dove? Il matarasso e la rete. Hanno trovato i prodotti sottoterra. E la perizia conclude che il materiale che hanno trovato sottoterra lo possono pulire e rimetterlo sul mercato per quando ce n'è. Proprio il cromo isovalente, il cromo 6, che lo sa, ce n'è, lo possono mettere sul mercato. A 50 metri dalla spiaggia di Prato. A 50 metri dalla spiaggia di Prato. Ora le ripeto, io ho il treno fra poco che devo andare a Praia, non le posso, se no io ho il dischetto dietro, quello di Crash, glielo facevo vedere tutto quello che è stato fatto. E anche per l'amianto, perché sempre discutiamo dell'amianto, perché lì dentro si usava l'amianto. E loro ancora insistono che l'amianto nemmeno un grammo. Io dissi al giudice, dice, no, giudice, non è un grammo, tonnellate sì, ma grammi no. Perché se i telai consumavano continuamente i freni, anche in una giornata consumavano i freni, bisognava cambiarlo continuamente. E si usavano. La sicurezza non esisteva e loro ancora insistono. Adesso, domani, dopo tanto, oggi è la ricorrenza del 19 aprile 1968, quando alla piazza di Vicenza la manifestazione, il famoso 68, hanno buttato giù il monumento di Marzotto che era in piazza, l'hanno buttato giù a tipo Saddam Hussein, e oggi fa l'anniversario. Domani ci dovrebbe essere questa udienza, perché dopo tanto siamo riusciti a partire il 30 e hanno fatto la prima udienza, si è smesso perché si era fatta tardi alle 5 di sera. Domani si devono concludere le parti civili con la speranza che si va avanti e poi dovrebbe iniziare il dibattimento. Io mi auguro che è tutto avanti. Noi, gli amici qua di questo Pigliando Primo, molti partecipanti qua, per solidarietà vengono a Paola quando ci sono le udienze, insieme a noi, a lottare, perché si va avanti e queste cose sui posti di lavoro non devono avvenire più. Io mi faccio tutta l'Italia da sotto a sopra andare facendo assemblee per testimoniare quello che è avvenuto. Il sabato di Pasqua ero a Vicenza, a Schio, in un'assemblea, e sabato scorso era a Mantea. Oggi dovevo essere a Pisa perché si presenta il libro La fabbrica dei veleni e testimoniare per la Marlana. Io non ci sono potuto andare perché domani devo essere a Paola. Cirillo, il co-scrittore con me del libro, è andato a Pisa e l'altra settimana era a Roma a presentare il libro e io non ci andai. E chi ha fatto il dischetto, che ha montato il tutto, è Giulia Zambino, una ragazza di qui, di vicino Cosenza, che ha montato tutto, ha fatto tutte queste indagini, queste cose qua. Ringrazio per l'attenzione, speriamo che la prossima volta ne possiamo parlare meglio di quello e di andare avanti sempre. Grazie a tutti e buonasera. Allora, ringraziamo Luigi Pacchiano. Oreste vi fa segno di tagliare. Io penso che il più grande problema della Calabria oggi sia la mancanza di indignazione e la volontà di parola in pubblico. Io non mi permetterei mai di togliere la parola a Luigi Pacchiano, perché se anche parlasse due ore dovremmo ascoltarlo, perché rimane una delle poche persone che hanno ancora il coraggio di incazzarsi e di parlare, che è un'attitudine che abbiamo un po' perso tutti, perlomeno dai 20 ai 40 anni. Una raccomandazione, comunque, manteniamoci, sono quattro interventi istituzionali, manteniamoci nei 12 minuti, poi se sono 15 non fa niente. Posso dire, Maria, che questo dibattito è in streaming su transizionedifase.org, lo possiamo ricordare. Allora, prima Luigi faceva riferimento a questa vicenda della mancata bonifica della Valle dell'Oliva, dove sarebbero, in fondo non hanno trovato nulla, secondo la Regione Calabria, 100.000 metri cubi di scorie industriali, livelli di radioattività 10-20 volte superiori alla norma, nulla di male, tant'è vero che il signor Scopelliti non ha inserito la Valle dell'Oliva nel piano di bonifica dei siti contaminati, a proposito di Regione Calabria, un problema solo vostro, no, non voglio metterla sul campanile, però adesso si capisce che significa quando il potere si sposta tutto a sud e Cosenza viene tagliata fuori, cioè la gente che abita da quelle parti dovrà tenersi la leucemia, dovrà vivere col sospetto che la Giulli Rosso abbia seminato scorie radioattive. A proposito, ci ha raggiunto l'avvocato Rodolfo Ambrosio, che è legale di Legambiente e si costituisce parte civile nei vari processi aperti in Calabria su queste tematiche. Giuseppe Infusini, la legislazione, la legge regionale cosa prevede? Così facciamo, ecco, io direi regione comune, vediamo un po' cosa ci aspettiamo dalle istituzioni. Ma io avevo preparato un intervento un po' più conciso, però volevo un attimo fare, visto che si è parlato della legislazione e dell'amianto anche in generale, volevo dare alcune date importanti. Intanto noi volevo dire qualcosa sull'associazione. La nostra associazione è nata a novembre del 2011, io e il mio collega Beniamino Falco ci occupiamo anche di valutazione dell'esposizione dal punto di vista tecnico, per le consulenze che facciamo per il Tribunale. Questa materia ci ha appassionato, abbiamo costituito questo comitato periferico dell'Associazione Nazionale Amianto Nazionale, che pur essendo un'associazione molto giovane, ormai è molto conosciuto perché gestisce anche una serie di cause, fa fronte a tante lotte, e l'avvocato presidente dell'associazione è una persona molto combattiva e ha difeso tanti, e difende ancora tante persone che purtroppo alcune sono morte. E allora questa associazione si occupa ovviamente di associazione di tipo ambientale, perché ci occupiamo di salute e di ambiente come tante altre, però con un taglio più spaccato, più preciso sull'amianto. Allora sull'amianto bisogna un attimo dire alcune cose, perché poi sull'aspetto della costituzione, dei danni che può fare, al limite mi può dire molto meglio di me il dottore Talvo. Spesso noi ci troviamo a ragionare con dei muri, perché alcune cose non si vogliono capire, perché se vogliamo risolvere il problema dell'amianto lo dobbiamo fare con delle regole e con delle norme ben precise, ma che vanno rispettate. Che l'amianto fosse cancerogeno è una cosa che ormai è nota già dagli anni 40-60, ma ancora prima, nel 1906 ci sono stati i primi casi di fibrosi, in Italia addirittura c'è una sentenza del Tribunale di Torino che dimostrava che l'amianto fosse genotossico e quindi influire sui processi infiammatori. E poi ci sono stati tanti altri studi nel 60, nel 73, alcune direttive della CEE. Quindi stiamo facendo un escursus molto importante, perché dobbiamo arrivare fino al 92, che è la prima legge sulla dismissione dell'amianto, perché si sancisce con precisione che l'amianto doveva essere messo al bando. Teniamo conto di una cosa, che la maggior parte degli imprenditori erano tedeschi. La Germania aveva dismesso le fabbriche del famoso Eternit, che vuol dire eterno, e così è, dal punto di vista la matrice cementizia, fibra d'amianto, cemento, dimostra che è eterna, ma è eterna e fa male la fibra d'amianto, purtroppo. E ci sono stati grossi imprenditori che hanno fatto sì che questa legge non uscisse prima, 20 anni prima della uscita. È uscito nel 92 e a noi ci hanno mandato gli imprenditori stranieri, i tedeschi, e noi abbiamo continuato a fabbricare amianto e prodotti in amianto. 3.000 prodotti in edilizia ci sono circa che contengono amianto, e non so dirvi, voi ormai queste cose sappiamo, dalle lastre, dalle tubazioni, dai guanti, un sacco di cose che sono entrate nelle nostre case in modo così, senza nessun avviso. Quindi l'altra cosa è che dal punto di vista scientifico non c'è una soglia minima di rischio al di sotto della quale, quindi il livello di esposizione al di sotto della quale non ci sia il rischio di prendere il cancro. Cioè teoricamente basterebbe una sola fibra che può essere letale e dimostrare i suoi effetti anche in tempo avanzato, quindi con l'età in tempi di 30-40 anni, cioè il periodo di latenza di questa malattia, di questa azione, quindi fino all'insorgere della malattia, è di circa 30-40 anni, tant'è che il picco delle morti in amianto, che sono circa dai 3.000 ai 4.000 all'anno, è previsto tra il 2015 e il 2020. Quindi questo amianto killer ha ucciso in tante parti, ha ucciso nei cantieri, navali, dove si fabbricavano i vagoni ferroviari, e in più è entrato nelle nostre case. Allora io dico, quando si fanno queste cose, come mai non si riesce a sensibilizzare l'opinione pubblica è disinformata, noi siamo anche qui per questo, per informare come trattare questa materia, ma come mai, c'è da chiedersi, diciamo, chi ci comanda, chi detta le regole, i politici, come mai non intervengono in situazioni così chiare, così nette? Cioè c'è la gente che muore e ci interessiamo di altre cose e facciamo finta di niente, mandiamo avanti i processi e altre cose, rubano da tutte le parti e da quest'altra parte invece uccidono, quindi c'è questo binomio rubare e uccidere che è, diciamo, ormai sta diventando una cosa molto quasi diciamo di routine. I processi in corso ce ne stanno tanti, se ne è parlato, ne sentirete parlare molto adesso, come dire, si sta facendo più rumore questa tematica, perché stanno lavorando tutti, specialmente, ripeto, le associazioni si stanno dando anche più spazio diciamo ai dibattiti, ai mass media, quindi se ne sta parlando. E quando sento dire molto spesso che il fatto che sia l'amianto non significa che l'amianto debba essere rimosso, perché bisogna vedere com'è. Allora, ci sono studi ormai consolidati, ma è normale che una lastra di amianto o un qualunque altro prodotto di amianto che è esposto all'atmosfera per più di 30 anni ormai è disgregato, non c'è possibilità che possa essere conservato. Perché si dice ancora, sei lì, sei in buone condizioni, allora non bisogna toccarle, non bisogna fare. No, l'amianto va cacciato. Questa è una cosa che dobbiamo ormai insistere, su una cosa che dobbiamo insistere profondamente e non ci dobbiamo piegare in giro. Va tolto, va levato. E allora siamo, come dire, danneggiati due volte. Una volta l'abbiamo usato, l'abbiamo pagato, anche parlo diciamo per noi tutti, diciamo che chi noi abbiamo usato. Diciamo prodotti in amianto, anche i guanti che si usavano diciamo in cucina erano in amianto, però diciamo il forte riferimento adesso su queste lastre. Noi abbiamo in Italia 32 milioni di tonnellate di amianto, sono 500 kg per abitante. Allora ci sono le regioni, ci sono 13 regioni che hanno fatto la legge regionale. Attenzione, perché la legge nazionale del 92 imponeva che entro 180 giorni dall'emissione di un decreto che è poi uscito nel 94, le regioni dovevano emanare dei propri piani regionali per il censimento e la dismissione dell'amianto. Quindi 180 giorni dall'uscita di un decreto, adesso vi faccio vedere poi quest'altra cosa sul decreto. Cioè, le date sono queste: dopo il 94, che è il decreto attuativo, diciamo, della legge del 92 della dismissione dell'amianto, queste regioni avevano 180 giorni per emanare questa legge regionale. Nessuna regione d'Italia l'ha fatto in tempo. Ci sono state le prime regioni, sono stata la Lombardia, è stata la Sardegna, che ha fatto una delle migliori leggi regionali. Quindi 13 regioni sul totale di 16, 17, non mi ricordo quante sono, 20. Quindi praticamente abbiamo un grosso ritardo. Perdona, dottore, cosa di estrema urgenza, siete pregati di non fumare, cioè, il motivo che vi dicevo prima, Laura appena avverte la presenza del fumo si sente male, cioè, non è uno scherzo, per favore, non si sente male. Quindi praticamente siamo arrivati a questa legge regionale della Calabria, che noi stiamo seguendo con molta attenzione, che è uscita nell'aprile del 2011. E tutto sommato la legge, diciamo, è ben articolata, però è così articolata che non è attuata. E purtroppo sono le cose che noi ci, come dire, come il cane che si muove la cosa, ci facciamo delle leggi, ce le facciamo così ben articolate e poi non le attuiamo. Allora perché dobbiamo cadere in questo circuito vizioso che ci crea tanti problemi e tanti danni e non rispettiamo la legge? Allora, la legge regionale si chiama così: interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini. Già questo mi fa pensare alla problematica come sia cogente e pressante. Norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dall'esposizione a siti e manufatti con rende amianto, in attuazione della legge 28 marzo 92 257. Quindi siamo praticamente a, quando sono 12, 8, 20 anni. Siamo a 20 anni da questa legge, e poi fa riferimento a quel decreto del 94 che vi dicevo, che dava 180 giorni, però questi 180 giorni che erano perentori, diciamo, non l'ho osservato nessuno. Benissimo, partiamo dalla legge. è stata pubblicata sul supplemento ordinario del Pur Calabria il 4/5/2011. E che cosa dice il primo articolo? La Regione Calabria, con la legge, intende predisporre gli strumenti necessari per la salvaguardia della salute dei cittadini e per la tutela del risanamento dell'ambiente attraverso la bonifica e censimento dell'amianto. Benissimo, siamo d'accordo, andiamo avanti, vediamo che cosa dice. Allora, praticamente è saltato un articolo 2. Dunque, la legge nazionale, perché l'ho detto prima, praticamente dava questi 180 giorni di tempo. Allora, gli obiettivi della legge. Allora, gli obiettivi, non sto a dirvi tutto, gli aspetti più importanti, quindi la promuovere l'informazione, sostenere le persone affette da malattie, la sperimentazione sulle tecniche di bonifica. E poi c'è questa predisposizione di piano decennale, che praticamente, una volta che la legge è attiva, in 10 anni si deve essere dismesso l'amianto. All'articolo 3 cominciano i problemi. Allora, la Regione 30 giorni deve nominare una unità speciale, che si chiama unità speciale amianto. Quindi 30 giorni di tempo, non l'ha fatto, ve lo dico già da adesso, non l'ha fatto. No. Dopo 30 giorni dall'USA, praticamente deve creare un portale informatico. Portale informatico dove naturalmente ci sono tutto il materiale che bisogna usare, che i comuni poi dovranno usare, che devono essere uguali questi materiali. Non è che il comune di Cosenza rispetto al comune di Catanzaro o il comune, altri comuni, Castrovillari, possono usare una modulistica diversa, sennò poi il censimento non ha un riferimento univoco. Quindi, e poi deve predisporre il piano regionale amianto, il piano regionale che si chiama PRAC, e la definizione delle linee guida per il piano comunale amianto. Quindi praticamente entro 60 giorni dove essere già attivo tutto. La giunta regionale, questo l'ho messo in classe, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che è andata in vigore alla data che vi ho detto, deve approvare il PRAC, piano regionale amianto per la Calabria. Senza il PRAC praticamente i comuni non possono fare nulla, perché nel PRAC è contenuto tutto il piano di come bisogna esistire, i censimenti, i finanziamenti, e tutta una serie di cose collegate. Quindi il PRAC, cioè il censimento, la mappatura georeferenziata dei siti sull'amianto, anche i siti naturali, poi deve dettare le linee per la promozione a livello comunale e divulgativo della problematica dell'amianto, il monitoraggio sanitario epidemiologico, l'elenco delle imprese che possono fare questo tipo di attività, gli indirizzi per la realizzazione del PAC, piano comunale amianto, e la definizione delle linee guida per la predisposizione degli incentivi da parte della regione per la rimozione dell'amianto. Questo l'ho messo in grassetto rosso perché praticamente il nodo è proprio qui, la finanza, cioè i soldi, perché se non ci sono i soldi, amianto non ne toglie nessuno. Il piano di smaltimento dei rifiuti amianto costituisce anche il punto focale del PRAC, di questo piano regionale. Quindi deve individuare per ogni provincia, per esempio, degli impianti. La legge prevede che il piano regionale amianto debba individuare dei siti dove possono essere smaltiti, dove essere smaltito l'amianto, perché tutte queste tonnellate di amianto dovremmo metterlo pure da qualche parte. E qui si instaura una grande problematica sui siti, eccetera, perché per esempio gli impianti di inertizzazione in Italia non ce n'è nessuno. Qui potremmo parlare per ore su questi impianti di smaltimento, insomma, ma quello ci vorrebbe un altro dibattito, un altro convegno. Quindi voglio dire, è articolata anche con la ricerca dei siti, dell'indicazione dei siti. La competenza, dà delle competenze all'ARPACAL e alle ASL, perché le ASL poi devono raccogliere questi dati, addirittura le ASL poi devono anche verificare insieme all'ARPACAL l'attuazione del piano per i comuni e quindi anche l'aggiornamento del piano. E poi ecco, l'articolo 8 impone, se ne parlava prima molto, molto intelligentemente, il potenziamento del registro regionale mesoteliomi maligni in collegamento con i centri di raccolta dati nazionali. Questa è un'altra grande grave lacuna della Calabria. Noi abbiamo il centro operativo regionale dei mesoteliomi che aveva sede a Catanzaro, a Lamezia Terme. C'era un medico che praticamente è andato in pensione, c'è un sostituto, uno che ha preso posto, però ancora non ha in mano nulla, cioè le ASL non sono in rete, non comunicano le morti per amianto per altre morti, perché generalmente si diceva prima, diceva Claudio, gente che è morta nelle vicinanze qui, cioè se non si fa una diagnosi precisa nel momento della morte, tutti possono morire di morte per soffocamento polmonare, per crisi polmonare o per crisi cardiaca. Però ecco, fare una diagnosi certa e poi andare in rete e si può vedere effettivamente se ci sono e quanti ce ne sono morti per mesotelioma oppure per malattia spesso correlate, cioè correlate con i danni dell'amianto. E su questo c'è una grave anche assenza della Regione Calabria, e noi su questo stiamo cercando di incidere e faremo anche insisteremo anche presso l'assessorato all'ambiente, perché questo, diciamo, questa attività, questo importante centro venga ristabilito e possa essere operativo. Controllo e sanzioni. È chiaro che i controlli poi se sono stati fatti i censimenti e la rimozione, di cui parlerà l'articolo 10, spetta ai comuni. E praticamente lì dove il cittadino non si è denunciato oppure praticamente non ha eseguito la bonifica, quindi lo smaltimento dell'amianto, può essere punito da 2.582 euro a 5.164, comunicazione della presenza di amianto. Cioè la mancata comunicazione della presenza di amianto è sanzionata. L'altra invece da 500 euro è il mancato aggiornamento, perché se uno si autodenuncia e poi succede che queste lastre hanno un deterioramento ulteriore, lo deve anche, come dire, aggiornare e ridenunciare. Se non lo fa, un'ulteriore multa. Quindi qua facciamo sanzione, sovrasanzione, però vediamo quali sono poi la parte attuativa. Informazione. Importanza sull'informazione, quindi l'obbligo della distribuzione di questo opuscolo e di tutta l'aggiornamento del portale che deve fare l'USA, diciamo è tutto collegato con i comuni. Quindi se la regione non fa questo portale e non crea questa documentazione, i comuni non si possono muovere autonomamente, anche se a un articolo a un certo punto dice i sindaci dei comuni interessati sono obbligati ad emettere entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bur Calabria l'ordinanza sindacale. Cioè l'ordinanza sindacale è quella che dice che una volta che sono uscite le linee guida per il piano comunale, allora prima di poter redigere questo piano comunale il sindaco fa un'ordinanza, come ha fatto, che lo dico senza, però ripeto, l'ha fatto di sua iniziativa, ma non può avere corso questa procedura fino a quando il piano regionale amianto non è completato. Addirittura la modulistica potrebbe essere diversa e potrebbe anche essere catalogato diversamente l'amianto. Quindi su questo io penso che ci dovrebbe essere una unità di procedura. Intervento e contributo regionale. Mi avvio alla conclusione. Questo è il vero vuoto della legge. La Regione Calabria, per interventi di bonifica manufatta amianto presente su aree edifici di proprietà pubblica, concede a enti locali e soggetti pubblici in relazione a una certa graduatoria che tenga conto del rischio sanitario ambientale, quindi concede questi contributi, ma devono dimostrare di aver fatto il relativo censimento. Figuriamoci, gli edifici pubblici devono essere censiti per prima, no? Ci sono tanti edifici pubblici che sono pieni di amianto, se pensiamo pure agli ex consorsi agrari, per esempio, ce ne sono a decine. Il Dipartimento dell'Ambiente nel 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite quest'altra bella ciliegina, il Dipartimento dell'Ambiente entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge predispone un avviso in cui sono definite le modalità, i termini e i parametri tecnici valutativi. Le domande possono essere presentate al 90° giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Io, se ci sono degli impiegati pubblici, dei colleghi tecnici, ingegneri, che devono dire se è arrivato qualcosa dalla regione circa questa normativa, questo articolo. Poi c'è un altro articolo, e qui si fa riferimento ai privati, ma in un modo un po' non chiaro. La Regione Calabria, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comune lettera A, concede contributi per interventi di bonifica da manufatti di amianto presenti su edifici o aree di proprietà pubbliche e private, ci aggiunge il privato, per le aziende operanti nel settore, con entità e modalità definite dal PRAC. Quindi se non esce il PRAC, il piano regionale amianto per la Calabria, non si può fare nulla a questo punto di vista. Coloro che non abbiano adempiuto agli obblighi, chiaramente, che non hanno fatto la denuncia e il censimento, non possono accedere ai contributi. Termini previsti dalla presente legge sono perentori. Articolo 13, un solo rigo. I termini previsti dalla presente legge sono perentori. Andiamo avanti. Normativa finanziaria, questa è la conclusione ridicola della legge. Vengono previste per l'anno 2011 250.000 euro solo per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3. Sapete qual è l'articolo? È l'articolo 3 che abbiamo citato prima, è la struttura tecnica dell'USA. Paghiamo la struttura tecnica. Questo è pagato nel 2011, 2012 e 2013. Pagato. È previsto, ci sono già dei bilanci. Adesso dice, all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11, contributi ad enti privati, questo l'ho aggiunto io, contributi ad enti privati, si provvede compatibilmente con le modalità di utilizzo delle stesse. Puntini interrogativi, che vuol dire? Vuol dire che se sono fondi europei, il privato non potrà mai accedere a finanziamenti, solo il pubblico può accedere con i fondi europei. E infatti loro lo dicono in una forma che non si capisce, lo dicono dicendo con le modalità di, compatibilmente con le modalità di utilizzo, già sanno che per i privati non è possibile, le risorse comunitarie disponibili allocate al capitolo eccetera eccetera. È entrata in vigore la presente legge, è in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione. La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, farla osservare come legge della regione Calabria, Catanzaro, il 17 aprile 2011. Cioè questi sono gli atti che noi abbiamo. Io, noi siamo andati a parlare come osservatore nazionale amianto due volte con l'assessore. La seconda volta ce ne siamo andati molto delusi e intendiamo fare una manifestazione con altri comuni diciamo a zone per fare una mozione, diciamo, di protesta verso l'inattuazione di questa legge a danno della salute e dell'ambiente. Quindi voglio dire, una scarsa sensibilità. Si diceva prima il fatto di andare a dirottare finanziamenti su aree che praticamente devono essere bonificate ma che riguardano magari i rifiuti solidi urbani e non vedere quelle che hanno più problemi seri. Una sola nota, c'è la regione Sardegna, a differenza della regione Calabria, quando c'era il governatore Soru, ha fatto la stessa, cioè la legge l'ha fatta nel 2005 e dice, per quanto riguarda i finanziamenti, perché qua è la cosa, cioè bisogna andare incontro ai cittadini, cioè andare a rimuovere 100 metri quadrati di amianto come l'asta, per ci riferiamo alla cosa più comune, ha un suo costo, non solo, e c'è il costo anche della sostituzione, di andare a mettere una nuova copertura. Quindi non si può non tenere conto di queste esigenze, specialmente in questi periodi di crisi, diciamo ancora piove sul vegliato. Contributo, articolo 7, la legge della regione Sardegna. A valere sulle stesse disponibilità finanziarie trasferite dalla regione alla provincia, perché loro hanno delegato alla provincia, le amministrazioni provinciali, sentite l'amministrazione comunale, sono autorizzate a concedere un contributo ai privati che effettuino interventi di bonifica d'amianto nei propri immobili. L'ammontare del contributo può essere quantificato fino ad un massimo del 60% delle spese ammesse a finanziamento. Allora, questo significa in qualche modo andare incontro ai cittadini e capire il problema e viverlo in una maniera cosciente e responsabile, perché così facendo i nostri governatori sono assolutamente irresponsabili, perché giocano sulla salute dei cittadini e noi non vogliamo fare allarmismi, perché il problema c'è, non vogliamo fare allarmismi, diciamo che qua moriremo tutti di tumore, però il rischio esiste, alto o basso non lo sappiamo. Il rischio esiste, quindi questo amianto deve essere debellato. Io ringrazio l'associazione perché ci ha dato questa opportunità oggi di fare una nostra prima uscita come invito, che è venuto un'altra associazione. Spero di aver dato come un minimo di contributo su questa problematica, anche se questi temi possono essere noiosi, perché specialmente quando si parla di legislazione. Però guardate, io sono fatto l'amministratore 10 anni nel mio comune di nascita a Rosa. Se uno conosce la legge, allora può agire. Se non conosci la legge, non puoi agire, perché sai quali sono i punti da affrontare, sai come comportarti e sai quando vai a parlare di come puoi, mettere in crisi le istituzioni che non funzionano. Dobbiamo farlo con forza, con coscienza, sapendo che la salute e l'ambiente, specialmente anche tutelato dalla Costituzione, è quello che riguarda noi, riguarda i nostri figli, riguarda il nostro futuro. Ringrazio di nuovo l'associazione per una nobile iniziativa. Ringrazio il dottore Infusino. Prima c'è un piccolo